Buonasera e buon ascolto. 20 dicembre 2010, terza trasmissione della nuova serie di Entropia Massima 2010-2011. Cominciamo la prima puntata, visto che le precedenti abbiamo parlato di lotte sociali nel Lazio lunedì scorso e la battaglia per l'acqua pubblica il lunedì di due settimane fa. Questa volta, come annunciato nella prima trasmissione, avviamo un discorso, una riflessione approfondita sul tema della decrescita. Alberto Castagnola al microfono, a cui do subito la parola. Bene, abbiamo pensato che quest'anno fosse opportuno occuparsi della decrescita in una maniera un po' sistematica per alcune ragioni. E la prima è che c'è una diffusa sensibilità a questo tema. Ovviamente non posso dire che le masse stanno lì aspettando il messaggio sulla decrescita, però cominciano a sorgere corsi, seminari, incontri. Insomma, questa parola e questo argomento non è più un lontano tabù al quale non ci si poteva avvicinare. La seconda questione è che, il secondo motivo è che le esigenze di una decrescita sono sempre più urgenti. Adesso poi piano piano capiremo perché, però quello che voglio sottolineare è l'urgenza e i risultati di Copenaghen, di Cancun, cioè delle grandi occasioni internazionali di modificare certi meccanismi di fondo del sistema economico dominante, spingono a, come dire, a porsi molto di più questo problema e ad accelerare le reazioni possibili. Questo mi sembra un secondo punto abbastanza importante. E il terzo punto è che abbiamo assolutamente bisogno di avere le idee chiare, cioè che io non posso più dire la sinistra, la opposizione abbia delle idee chiare su quali sono le esigenze della decrescita, nel senso che è un tema che non può essere accantonato. Poi si potrà discutere le modalità, i tempi, le dimensioni degli interventi, delle misure, eccetera. Su questo figuriamoci, ci sarà da lavorare per anni e anni per riuscire a mettere i piedi per terra e cominciare a affrontare il problema però il problema continua a essere sul tavolo e viene evitato accuratamente, e quindi noi dobbiamo fare uno sforzo in questa direzione. Abbiamo deciso qua in redazione di dedicare 7-8 incontri in maniera abbastanza sistematica, cioè partendo proprio dagli inizi, e vi prego di credere che non sarà un discorso teorico, cioè di prendere soltanto in considerazione gli aspetti teorici, le grandi discussioni tra i grandi intelletti, ma è semplicemente per far capire da quanto tempo c'è già una certa chiarezza di fondo sulla esigenza della decrescita e da quanto tempo noi stiamo evitando di occuparcene in maniera seria. Quindi questo mi sembra importante. Oggi farò dei discorsi un po' complicati, credo di non averli capito bene neanche io, perlomeno fino al 90%, no? Nel senso che sono complessi, e adesso vi spiegherò anche perché, però mi sembra però forniremo dei testi che metteremo sul sito appena sarà possibile, quindi sarà poi possibile come dire, non ascoltare soltanto la radio, ma avere la possibilità di un'analisi più approfondita, di una comprensione più chiara. Stiamo parlando naturalmente del sito di Onda Rossa, ondarossa.info, in cui c'è una pagina di Entropia Massima ancora non allestita, ma insomma c'è, lo spazio c'è, quindi tra breve saremo pronti, soprattutto Davide sarà pronto per mettere il materiale. Speriamo anche di, questo è un vecchio progetto, di aprire anche un forum, no? Di discussione con i nostri ascoltatori attraverso il sito. Bene, però facendolo su dei testi scritti, nel senso che poi certe volte i discorsi non sono precisi, e quindi invece avere un testo di riferimento mi sembra sempre importante. Allora, oggi io avevo pensato di iniziare in questo modo, cioè far emergere la figura di questo economista che si chiama Georgescu Regan, che già nel 1972 aveva pronunciato il termine decrescita e soprattutto aveva preso di petto questo problema. Senti, 72 è l'anno del famoso rapporto del Club di Roma, esatto. C'è qualche relazione? Caspita, c'è una relazione, infatti poi ti citerò delle sue valutazioni su quelle del Club, sullo sviluppo, eccetera. Perché evidentemente in quel momento c'è stata una maturazione generale, cioè non era una maturazione all'interno di un solo cervello, ma c'erano una serie di elementi, di spunti che evidentemente stavano cominciando a emergere, però la limpidezza della sua analisi è rimasta, come dire, inimitata finora, cioè noi stiamo annaspando un po' per andare avanti sulla linea e sul rigore di analisi di Georgesco Reagan. Il punto fondamentale, intanto cominciamo a chiarire un punto: che cosa intendiamo per decrescita? Io sto cercando di raccogliere un po' di definizioni, quindi poi le metteremo appunto per iscritto. Il problema fondamentale è che dobbiamo renderci conto che il sistema economico, cioè tutte le attività che l'uomo svolge sulla Terra, non possono essere infinite. Cioè, un discorso molto semplice, in fin dei conti. Cioè, che le risorse della Terra sono finite. E noi quindi ogni volta che invece ci illudiamo di poter andare avanti senza porre limiti, senza porre qualunque limitazione sia di qualità che di quantità, è un errore. Cioè, e quindi ogni volta che facciamo questo errore vuol dire che noi accumuliamo danni e soprattutto accumuliamo sofferenze umane per l'immediato futuro. Scusami, solo una precisazione. Prego. Per gli ascoltatori, perché il termine è, diciamo, ambivalente. Finito ha un doppio significato, nel senso di già terminato e nel senso di limitato. Quindi ovviamente Alberto sta dicendo le risorse sono limitate, perché in effetti non sono ancora terminate, anche se sulla via D. Però, ecco, scusa. No, hai fatto bene, perché lo stavo usando già nei termini del discorso da fare, quindi era finito nel senso di delimitato, no? O limitato in questo senso. E viceversa, tutte le interpretazioni contrarie a questi pensieri, a queste elaborazioni, continuano di fatto, in un modo o nell'altro, a pensare in termini di illimitatezza, di evoluzione, di sviluppo. In particolare, questo è uno dei punti che nel testo che adesso vi illustrerò viene sottolineato molto. In particolare viene spessissimo avanzato l'idea che c'è una illimitatezza nella tecnologia, cioè che l'evoluzione tecnologica, il cosiddetto progresso tecnologico, non abbia ancora esplicitato tutte le sue potenzialità e che anzi per il futuro sarà sempre possibile trovare una soluzione tecnica, tecnologica, per problemi di limitazione delle risorse naturali. Quindi questa immagine, però attenzione, perché la troviamo dappertutto, molte volte è implicita in certe affermazioni che vengono fatte o in certe cautele che non si capisce perché ci debbano essere, invece tutti si nascondono dietro questo fatto che poi qualcuno troverà la soluzione in un futuro mai così lontano. E quindi questo è lo snodo, diciamo, di fronte al quale ci troviamo. Forse anche per il discorso che alcune delle risorse sono rinnovabili, cioè nel corso dell'anno alcune di queste risorse hanno la capacità naturale di poter essere rinnovate e quindi di poter essere nuovamente, certo, utili. Certo. Infatti uno dei calcoli di cui spesso, certo, quello, si sente... Infatti la cosa importante è quella del solare. Però per esempio già in questi testi del 72 veniva sottolineato il fatto che noi possiamo utilizzare l'energia solare, ma abbiamo grossissime difficoltà a usarla parzialmente, cioè non riusciamo a fare un flusso. Noi abbiamo una grandissima fonte che è quella che è il Sole, che per un certo numero di migliaia di anni sarà ancora lì, eccetera, eccetera, però poi di fatto non riusciamo a utilizzarla nella maniera giusta. E allora già questo cambia immediatamente, quindi non è più una fonte, è rinnovabile, ma non è illimitata, nel senso che l'accesso, la disponibilità concreta materiale è parziale. Sembra moltissimo rispetto a tutte le altre fonti, e questo è particolarmente importante da sottolineare. Certo, io mi riferivo anche alla capacità della natura di, certo, di rinnovare. Un altro problema, no? Certo. Però infatti, si sente dire che quest'anno, ad esempio, siamo arrivati ad agosto, no? Sì, sì, sì, quella questione lì, perfetto. Però anche lì la rinnovabilità è tipica di una natura libera, cioè di una natura che non venga sistematicamente massacrata, che non venga deteriorata, che non venga cementificata. Allora immediatamente interviene un limite, cioè che siamo noi stessi, cioè l'azione antropica, come si dice in termini scientifici, che introduce il limite nella rinnovabilità della natura. Quindi l'uomo ha una funzione entropica, come questa trasmissione, esatto. No? Io invece voglio interpretare adesso per un momento la parte di un fanatico della tecnologia. Vai. Che rivolgendoti a te dice: ma come fai a dire queste cose quando a Ginevra, sotto nello laboratorio sotterraneo, fior di scienziati e premi Nobel stanno lavorando per creare la fonte di energia praticamente infinita, quella dell'energia nucleare, ma non termonucleare, bensì in parole povere la creazione di un sole in miniatura. Lì è questione di anni e poi avremo questa risorsa per risolvere tutti i problemi. Il testo che adesso poi vi citerò in dettaglio tiene conto di questo, cioè dice: è vero, stiamo cercando di fare queste cose. Parla chiaramente di fissione già all'epoca, quindi era perfettamente cosciente delle tutte le varie ipotesi che si stavano facendo. Intanto sono passati 40 anni, ma questo è un dettaglio. E poi c'è sempre il problema del come viene utilizzata, cioè ipotizzando di trovare, perché se questa fonte di energia, per essere per essere trovata, sperimentata, messa a punto, messa in produzione, sto usando le categorie normali di un sistema industriale, se consumano più energia di quella che poi vedono uscire dalla parte utilizzazione, non serve, cioè comunque è un qualcosa molto utile, attenzione, per certe attività, per soddisfare i bisogni di certe industrie, ma non per tutti. Allora c'è un limite molto grosso, perché dipende dal fatto che, per esempio, come si fa a pensare già oggi a una tecnologia che sia realmente utile per 9 miliardi di persone, quando non riusciamo nemmeno oggi per 6 miliardi e 800 milioni a utilizzare una quantità notevole di energia che già abbiamo da tanto tempo. Cioè il discorso è ancora una volta poi oppure tutta la questione viene spedita in un futuro infinitamente lontano e quindi di poco interesse per i problemi sociali attuali. Bene, allora facciamo una pausa della trasmissione. Siete sempre all'ascolto di Onda Rossa, 87.9 Entropia Massima. Per chi volesse intervenire via telefono, 06 49 17 50, ma prima ascoltiamo un po' un pezzo di Emerson, Lake and Palmer, un'improvvisazione per pianoforte. Va bene, allora io sto seguendo un testo di cui ovviamente consiglio la lettura e poi darò le indicazioni sul sito, che è stato scritto nel novembre del 1972. È diviso in due parti e nella prima parte è intitolato Energia e miti economici. Quindi in pratica l'economista parte proprio nel cuore del problema, cioè decide, dice andiamo a vedere come si comportano le fonti di risorse e le fonti di energetiche e vediamo come questo funziona o non funziona e soprattutto come viene interpretato. Allora, il testo, se uno lo legge con una qualche attenzione, è molto interessante perché lui cita prima che cosa si dice in giro, cioè quali sono le posizioni assunte dagli economisti, eccetera, e poi dice questa è una baggianata, oppure questo non esiste, oppure eccetera, eccetera. Cioè c'è una presa d'atto, diciamo, c'è una specie di rassegna di quello che è il pensiero dell'epoca, compreso quelli del Club di Roma e via dicendo. A proposito del Club di Roma, per continuare il discorso di prima, non casualmente tutto lo studio del Club di Roma, nei primissimi rapporti, era fatto al netto dell'evoluzione tecnologica. Cioè, dava per scontato che ci sarebbe stato e quindi tutta una serie di soluzioni possibili, eccetera, eccetera, però non faceva nessuna ipotesi. Allora, c'era un'apparente semplificazione, nel senso che veniva fatto tracciato questo scenario, però non si fornivano gli elementi e soprattutto quindi non si affrontava il problema dell'energia in termini reali. Non so se è chiaro. Quindi questi erano uno dei limiti che si discussero già all'epoca, insomma, cioè appena apparve il documento base. Allora, il primo problema che viene richiamato è questo. C'è qualcuno che pensa che, come è avvenuto in passato, come su molte leggi della natura, così da molte leggi della natura, anche quelle su cui si basa la finitezza delle risorse accessibili saranno confutate a loro volta. Quindi in pratica questo è il gruppo di scienziati, di esperti, di economisti che dicono sì, però oggi noi non conosciamo tutto, non conosciamo tutte le risorse, tutte le teorie che stiamo elaborando in questo momento, siccome è già successo molte volte nella storia che sono state confutate da scoperte successive, quindi basta aspettare un po' per vedere se poi è vero, eccetera, eccetera. C'è una specie di spinta in avanti della soluzione del problema. Il richiamo che fa l'autore invece è molto divertente, perché dice immediatamente, dice per esempio l'impossibilità del moto perpetuo è un qualcosa che è come la legge di gravità, cioè c'è, no? E questa impossibilità è stata dimostrata già tante volte, cioè noi continuiamo a lasciare irrisoluto la prospettiva. Quindi attenzione, cioè è vero che ci sono molte teorie che sono state confutate, però ce ne sono anche altre sulla finitezza delle risorse che con ogni probabilità sono vere e non possiamo discuterle oltre. Anche quella dell'entropia, immagino che sia da vedere. Lui sta parlando dell'entropia. Lui sta parlando dell'entropia, l'uscita più volte. No, ho capito solo del modo perpetuo. Certo. No, sta parlando dell'entropia. Ne dà una certa definizione. Quindi questo fatto che qualunque quantità di energia noi usiamo c'è un decadimento di questa energia. Quindi c'è la trasformazione di questa energia in altre sostanze. Cioè l'energia permette la trasformazione delle sostanze energetiche in altre sostanze, però in ogni caso c'è stato un decadimento. E questo decadimento, fra l'altro, fa sì che non essendoci più energia libera iniziale, ma solo un'energia non più libera, cioè che si è condensata in una sostanza, tu hai qualcosa di meno a disposizione. In genere si fa sempre un esempio, no? Sì. Anche per gli ascoltatori lo facciamo. Il frenare con la bicicletta, no? C'è un'energia meccanica che si trasforma in un'altra forma di energia termica, lo sfregamento sì. Del freno contro il cerchione, ma quella forma di energia è degradata e dunque non è più utilizzabile. Quindi il moto perpetuo non esiste, perché non posso pensare all'infinito di andare a ricavare energia dalle trasformazioni successive. Dalle varie trasformazioni, esatto. Allora, qui dice, alcuni immaginano per esempio che un catalizzatore, ma non precisato, che sia in grado di scomporre le acque marine in ossigeno e idrogeno, la cui combustione ci darebbe tutta l'energia di cui potessimo avere bisogno. Ma l'analogia con la scintilla che fa bruciare della legna non calza. L'entropia del legno e l'ossigeno usato nella combustione è minore di quella delle ceneri e del fumo risultante, laddove l'entropia dell'acqua è maggiore di quella dell'ossigeno e dell'idrogeno dopo la scomposizione. Perciò anche il catalizzatore miracoloso implica quello che l'economista che stiamo citando chiama il contrabbando di entropia. C'è poi un'altra questione che era più o meno stata... Scusami. Quindi il discorso del catalizzatore dell'acqua, che nel bilancio conclusivo l'energia necessaria in entrata è superiore a quella che si ricaverebbe esatto, in uscita. Adesso aspetti un attimo, adesso c'è una seconda posizione che viene citata. Allora, questa seconda posizione dice, per esempio, un'idea che ora, cioè all'epoca, viene propolata in tutti gli editoriali è che i reattori a generazione, dell'ultima generazione, producano più energia di quanti ne consumano. La fallacia del contrabbando di entropia sembra aver raggiunto il suo culmine, compresi sia tra i circoli letterari e quelli compresi gli economisti. Ma sta parlando dei reattori nucleari? Sì, sì. Si alimenta questa illusione, si alimenta di sconclusionati discorsi interessati da parte di alcuni esperti nucleari che cantano le lodi dei reattori che trasformano materiale fertile ma non fissile in materiale fissile, come dei generatori che producono più energia di quanti ne consumano. La cruda verità è che il generatore non è affatto diverso da un impianto che produca martelli servendosi di martelli, secondo il principio del deficit della legge dell'entropia, eccetera, eccetera. Cioè è sempre la stessa accusa, però lui fa tutta una serie di esempi, dicendo, guardate, poi c'è tutto il gruppo di quelli, pensiamo in questo momento... i nuclearisti che hanno ripreso fiato e che si stanno e cominciano a far circolare ipotesi di questo genere qua. Allora è interessante che nel 72 è stato scritto questo, certo. No? Questo sembra scritto l'altro ieri, esatto. È molto divertente. L'altra questione poi è che, per esempio, qualcuno dice la Terra è arabile. Leggiamo anche che non esiste neppure un limite superiore della terra arabile, perché il concetto arabile è indefinibile. La sofisticheria di queste argomentazioni è flagrante, no? Però cioè, appena uno si ferma un attimo e dice, come sarebbe dire, non si può definire terra arabile, no? Da un lato, e dall'altro sappiamo quanta terra arabile viene destinata a altri usi, non fosse altro che quello per costruire città, e oggi, negli ultimi 40 anni, abbiamo superato la metà della popolazione che sta in una zona cementificata. Insomma, questo, quindi tutte queste osservazioni sono tutte molto significative, proprio perché abbiamo in mezzo 40 anni di dimostrazione, diciamo, a maggior ragione di quello che veniva detto. C'è dall'altra parte, qui l'imputazione, la tesi degli economisti tradizionali e di quelli di orientamento marxista è che il potere della tecnologia è illimitato. Ci sono una serie di citazioni che non ripeto. E quindi, qualora dovessimo esaurire una certa risorsa, escogiteremo sempre qualcosa, proprio come abbiamo fatto sempre fin dai tempi di Pericle. Non capisco bene Pericle perché, ma insomma questa è la citazione. No, in genere... Anche essere dalla scoperta del fuoco, chissà perché da Pericle, boh. Appunto, c'era quell'altro degli specchio story, insomma, no, c'erano tanti greci da citare, ma invece Pericle, vabbè. E quindi lui dice: è difficile concepire una forma di pensiero lineare più ottusa di questa. E qui c'è una sottolineatura che devo fare, nel senso, pensiero lineare, questo è il pensiero che viene da Descartes, no? Da Cartesio, che vede tutta la linea evolutiva umana sempre in una linea fissa che va avanti sempre verso l'alto, sempre verso l'aumento, no? È il pensiero lineare. Il progresso, la civiltà. Il progresso, la civiltà, eccetera, eccetera. Sono sole, no? Sullo sfondo. E mentre chiaramente si fa riferimento a un pensiero molto più complesso, molto più articolato, che tiene conto di una serie di altri fattori e quindi che non prevede processi lineari, nel senso non modificabili. Allora, dopodiché ci sono una serie di indicazioni, perché dice, c'è qualcuno che dice, se la degradazione entropica potesse piegare l'umanità nel futuro, dovrebbe averlo già fatto dall'anno 1000 in qua. Insomma, è una dimostrazione, così, come dire, che non si regge in piedi, però c'è gente che la sta portando avanti, ci sono sempre tutte le citazioni. Poi l'altro elemento sempre relativo alla tecnologia è, e questo lo fa Maddox, l'autore citato, il discorso è che la giustificazione che viene data è che un progresso tecnologico ne induce sempre un altro. Quindi c'è questa sensazione della accumulazione su se stessa, no? Del processo della tecnologia. E allora, e che insistere sull'esistenza di un limite alla tecnologia significa negare la capacità dell'uomo di influire sul processo, sul progresso, scusate. Allora, questo che cosa dipende? Dipende quando tutto questo è assolutamente poco, come dire, attendibile. E poi c'è infine un'altra tesi che dice che si può definire l'inganno della sostituibilità infinita, cioè in sostanza quello che si viene, e questo oggi in questo periodo viene detto spesso, no? Cioè si trova spesso citato attualmente, cioè ogni volta che una risorsa è venuta a mancare abbiamo trovato una soluzione, cioè un'altra risorsa che poteva sostituire la precedente. Allora, questo è vero e può continuare anche a essere vero per un certo periodo di tempo. Il problema è che stiamo sempre parlando di quelle risorse finite di cui si parlava all'inizio. Quindi è una sostituibilità, come posso dire, parziale e temporanea, cioè non risolutiva, perché poi ci sarà un altro limite, la stessa soluzione trovata può trovare un altro limite e ci saranno delle impossibilità di sostituzione. Facciamo la seconda e ultima pausa di questa puntata di Entropia Massima. Ricordiamo il telefono se qualcuno volesse rapidamente intervenire, 06 49 17 50. Ancora un pezzo di musica, questo è Public Enemy, Bring the Noise. Too strong, too black, too strong. Yo Chuck, these dirty dribbles are still fun on us. Don't know we can do this, cause we always do this. How low can you go? Death row? What a brother, no. Once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal beast. Public enemy number one. 5-4 said freeze, and I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator X-Bun. Now they got me in a cell, cause my records they sell. Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you wanna listen to what he can say to you. What you ought to do is follow for now. How are the people say? Make a miracle, keep up the lyrical. Black is back, all in, we're gonna win, check it out. Yeah. Yo, come on. Here we go again. Bring the noise. Hey, yo, Chuck, they say we too black, man. Bring the noise. Yo, I don't understand what they say, but little do they know they can get a smack for that, man. Never batter than bad, cause a brother is madder than mad at the fact that's corrupt like a senator. Soul on the rope, but you treat it like soap on a rope, cause the beats and the lies are so dope. Listen for lessons I'm saying inside me. music that the critics are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters. Why, cause the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning black as they call us a black, but we'll see if they'll play this. Bring the noise. My DJ is warm, he's sexy. I call him Norm, you know. He can cut a record from side to side. So what the ride, the glide, what should be safer than a suicide? Soul control beat is the father of your rock and roll. Music for watching, for witching. You call a band, man, making a music of music. But you can't do it, you know. You call them demos. But we ride demos too. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono. Beat is for Yoko Ono. Run the MC for a center. DJ could be a band standing its own feet. Get you out your seat. Beat is for Eric B and LL as well. Hell, watch is for Anthrax. Still it can rock bell. Ever forever, universal. Will sell. Time for me to exit. Terminator exit. Hey, yeah. Bring the noise. Hey, yeah. Yo, they should know by now that they can't stop this bummer. Bring the noise. Word up, and they keep telling me to turn it down, but yo, play the flame ain't going out like that. Come on. Allora, un altro punto importante è quello, il riferimento che è stato fatto, questo era in particolare fatto da Mandeli, allo stato stazionario, cioè c'è stata tutta un'elaborazione qualche anno fa sulla ipotesi che la soluzione di questo problema dell'entropia potesse essere nel avere una società planetaria stazionaria. Quindi cioè che non aumentasse, non diminuisse, ma rimanesse fissa. Ecco, puoi ripetere più chiaramente il nome dell'autore? Sì, si chiama Ermandeli, scritto Dali, ecco, con la Y finale. E anche in questo caso c'è tutta una discussione, un po' complicato da citare, che fa l'autore su cui stiamo lavorando, perché dice lo stazionario si può mantenere per un periodo di tempo, poi ci saranno delle variazioni in su o in giù, quindi in pratica in su o in giù, cioè aumentando le quantità, modificando le quantità, e soprattutto c'è una difficoltà enorme, cioè di avere una tecnologia, cioè un'elaborazione tecnologica che sia diretta a mantenere la stazionarietà. Cioè che ogni volta che c'è una variazione cerchi di ricondurre il sistema allo stato stazionario. Quindi in pratica è una ipotesi che non si regge, no? Cioè che non è realizzabile, non è realistica, cioè non è connessa con la realtà. Questo sempre tenendo conto del fatto che poi c'è una popolazione sotto a questi discorsi e quindi hanno dei comportamenti che possono non essere assolutamente ricondotti al discorso fondamentale. Allora, quindi l'ipotesi di una economia stazionaria si può formulare, però deve essere formulata in un certo tempo, cioè deve essere delimitato il tempo e bisogna capire che tipo di soluzione si adotterà alla fine di quel periodo. Non so se, cioè, questa è l'indicazione che lui dà, nel senso che non si può escludere come maniera di ragionare, come approccio alla soluzione dei problemi. Però è una questione, come dire, intermedia, cioè è una fase intermedia che non può essere mantenuta a lungo. Quindi non si può proiettare in avanti il concetto di stato stazionario, di economia stazionaria, per un periodo di tempo molto lungo. Faccio una domanda. È un dibattito che mi sembra non concluso tra i demografi, ma la possibilità di una crescita zero della popolazione mondiale, ovvero tanti nati per tanti morti, no? Fino adesso c'è stata, in alcuni periodi della storia c'è stata anche addirittura una decrescita, però diciamo a partire perlomeno dalla metà dell'Ottocento, forse anche dalla fine del Settecento, la crescita della popolazione ha seguito un po' una linea a iperbole, no? E anche se adesso l'accelerazione sta diminuendo, oppure in alcuni paesi, tipo per esempio l'Italia, di fatto da una decina d'anni più o meno siamo intorno alla crescita zero, anche se adesso col contributo degli immigrati c'è una leggera risalita. Ecco, limitatamente all'aspetto demografico, pensi che sia possibile un'ipotesi stazionaria? Posso leggerti testualmente il testo del indipendentemente da questi impedimenti, esistono ragioni semplici per non credere che l'umanità possa vivere in uno stato stazionario perpetuo. La struttura di uno stato simile resta invariabile per tutta la sua durata, non contiene in se stesso il germe della morte inesorabile di tutti i sistemi termodinamici. D'altro canto, un mondo con una popolazione stazionaria sarebbe costretto a cambiare continuamente la propria tecnologia e il suo stile di vita in risposta all'inevitabile riduzione dell'accessibilità delle risorse. Ecco, questo lo capisco meno. Cioè, nell'ipotesi in cui diciamo una popolazione stabile, quindi non in crescita, sì, in cui fossero magari aboliti gli sprechi, certo, non ci fosse più il sistema capitalista, ma eccetera eccetera, questa affermazione sarebbe ancora vera? È in quel caso che è più vera, perché lui dice: da un lato dovremmo adeguare continuamente la tecnologia per tenere fermo il sistema, il che c'è una contraddizione in termini, cioè chi si metterebbe a fare una tecnologia per stare fermi? Questo non l'ho capito. Nel senso che la tecnologia potrebbe... Perché implica un cambiamento della struttura demografica, un miglioramento della tecnologia? No, non della struttura demografica. Io mi limitavo a quello. Sì, aspetta. L'altro pezzo è che ti dice invece proprio esplicitamente che siccome c'è il meccanismo dell'entropia della prima legge della termodinamica, tu c'hai una continua riduzione delle risorse, cioè la degradazione delle risorse, quindi la popolazione fissa, stazionaria, come la stai descrivendo tu, si troverebbe ad avere sempre meno risorse. Comunque. E quindi non è la soluzione del problema, cioè tu ogni volta devi impostarle in una maniera diversa. Quindi non so, diciamo, chiaro, non è l'elemento demografico quello che non è quello che possa incidere sul problema della crescita. Il fatto che oggi sia diventato un elemento una componente di un problema particolarmente importante, questo non è discutibile. Però uno potrebbe anche dire: guarda, che in questo momento, adesso faccio un'affermazione mia, noi stiamo consumando le risorse in una maniera completamente sbagliata da questo punto di vista, perché il massimo del consumo avviene in una fascia ristretta della popolazione mondiale, meno di un sesto. Tutti gli altri usano molto meno risorse pro capite, e quindi questa è la situazione, quindi molto diversa dalla situazione stazionaria. Mi spiego? Ecco, allora il primo problema da risolvere è quello, noi lo chiamiamo da sinistra, lo chiamavamo un tempo la redistribuzione, cioè come si fa? In sostanza il problema in questo momento si pone in: avendo una popolazione che a oggi aumenta del 75 milioni di persone all'anno, qual è il tasso giusto di uso delle risorse per conservare in vita tutte queste persone e anche quelle che necessariamente nasceranno nei prossimi anni? La decrescita vuol dire questo, cioè semplicemente invertire la logica, cioè non come si fa a utilizzare al massimo le risorse disponibili, ma data una popolazione, come si fa a utilizzare le risorse nella maniera più razionale possibile. Quindi evitando un consumo eccessivo delle risorse, eccessivo, e allo stesso tempo favorendo una redistribuzione, come dire, un uso più diffuso, chiamiamolo così. Perché no? Comunque dobbiamo decrescere, questo in termini assoluti, esatto, no? Però in più ci sarebbe, cioè, il problema che deve essere affrontato, e la decrescita cerca di affrontarlo, il pensiero della decrescita. Non credo che ci siano ancora le soluzioni già pronte e operative, dico però... quello che deve essere risolto è questa parte del problema, quindi data la popolazione esistente, mi spiego? Quindi lo stato stazionario, ripeto, non è una risposta, questo viene detto con estrema chiarezza, non è una risposta soprattutto a breve termine. Non so se è chiaro. No, è chiaro. Diciamo, per tornare al punto del demografico, è chiaro che una crescita forte della popolazione mondiale non può che aggravare i problemi connessi al consumo delle risorse, no? Perché si presume che o diminuiscono le risorse pro capite, no? Man mano che cresce la popolazione, oppure se rimangono le stesse o addirittura devono aumentare, perché molta parte della popolazione mondiale è alla povertà. È chiaro che l'aumento della popolazione complica il problema, però d'altra parte un riuscire a contenere, come alcuni teorici hanno pensato in passato, hanno detto, forse qualcuno sì. ancora oggi dice che il vero problema, pensiamo a Malthus, no? Due secoli più fa, il vero problema è l'aumento della popolazione, anche se, come hai detto tu, si arrivasse a stabilizzarla o addirittura a diminuirla, il problema non sarebbe ancora risolto. Certo. Con gli attuali livelli di consumo. Certo. Quindi è tutto da rimettere in discussione, cioè tu devi... Io volevo solo leggere due parole ancora, se è possibile, perché credo, non sono sicuro, questa è una mia illazione. È la prima volta che si usa la parola decrescita, non so se è chiaro, vorrei... Nella storia, cioè, vediamo, almeno in questo articolo, vediamolo così. Cioè, dice, ciò porta alla luce il punto, importante ma trascurato, che la necessaria conclusione dei ragionamenti in favore di quella visione che è lo stato maggiormente desiderabile non è quello stazionario, ma uno di decrescita. Indubbiamente la crescita attuale deve cessare, meglio deve invertirsi. E ricordiamo l'autore e l'epoca, 1972, Georgescu, no? Reagan. Georgescu Reagan. Georgescu. Rumeno, no? Rumeno, ma sì, sì. Emigrato, se non ricordo male. Emigrato, sì, sì. Bene, questo allora, è un primo assaggio di questi abbiamo problemi. Abbiamo iniziato un lungo percorso che durerà alcuni mesi. Esatto. Giusto. Quindi va, buon lavoro a tutti. Grazie ad Alberto. Entropia Massima termina qui con qualche minuto di ritardo, in ogni caso entro i 45 minuti, e da Onda Rossa 87.9 vi diamo appuntamento non a lunedì prossimo, che è il 27 di dicembre, ma a lunedì dopo, cioè l'anno nuovo, 3 gennaio 2011, in cui torneremo a parlare o delle problemi energetici e ambientali legati alle lotte del Lazio, oppure, adesso ci consulteremo con Davide, parleremo di argomenti di attualità, tipo per esempio Wikileaks e tutto quello che riguarda la diffusione delle informazioni e delle conoscenze nel mondo di oggi, dove appunto si viaggia, milioni e milioni di persone viaggiano virtualmente su internet. Un saluto a tutti e a tutte, e restate all'ascolto.